La versione di Oscar Giannino. The future's in the air, can feel it everywhere. I'm blowing with the wind of change. Buon pomeriggio cari ascoltatori di Radio 24, buon 21 di settembre, buon lunedì, buon inizio di settimana, sono le 16.32 primi e siamo in diretta agli studi Radio 24 di Milano. Oscar Giannino vi saluta, vi ringrazia, va subito all'argomento della puntata, perché sta sigla nuova sul cambiamento che vola nel vento, oggi, visto l'argomento della puntata, però introduce un cambiamento che non è molto positivo, perché parliamo di questo in questa puntata, della enorme, veramente enorme, gigantesco scandalo in cui è finita dritta la Volkswagen. Stiamo parlando quindi uno dei pilastri dell'export tedesco nel mondo, stiamo parlando della casa automobilistica che da due anni, bisogna vedere alla fine di quest'anno come andava, è in lotta con Toyota per avere la palma del primo produttore di auto mondiale sul filo dei 6 milioni di auto vendute l'anno. E stiamo parlando di una vicenda che in realtà non ha precedenti per la tipologia nella storia dell'auto mondiale. Perché? Perché è verissimo che soprattutto sul mercato americano, dove i regolatori dell'auto sono implacabili, si sprecano in realtà le vicende di grandissime case automobilistiche obbligate dal regolatore per apparati dell'auto che non funzionano, per deficienze che creano danni, incidenti e morti, obbligate a sanzioni e a ritirare le auto e a ripararle o sostituirle con nuove. Solo alla fine della settimana scorsa General Motors, la più grande delle tre case automobilistiche americane, vi ricordo che ha chiuso un processo penale gravissimo che era aperto a proprio carico per dispositivi di airbag che avevano prodotto 174 vittime e 275 feriti gravi negli Stati Uniti per alcune sue auto, e l'ha chiusa con una sanzione di 900 milioni di dollari, quindi stiamo parlando di botte pesanti. Toyota ha dovuto richiamare nel tempo 1.600.000 propri veicoli venduti in più anni sul mercato americano, anche in quel caso pagando milioni di dollari per evitare i giudizi penali. Ma quello che non era mai successo nella storia dell'auto è quello che si abbatte oggi su Volkswagen, con una Volkswagen che appare manifestamente colpevole, colpevole di una truffa clamorosa. Come si accerta questa truffa? La truffa si identifica nel fatto che sui motori diesel, in particolare sui motori 2 litri, 2000 di cilindrata, delle diverse auto vendute nel mercato americano, perché a oggi sappiamo solo ciò che è avvenuto nel mercato americano, poi vedremo gli altri interrogativi, per anni, da parecchi anni, la Volkswagen monta un software sulla centralina del motore, e questo software è in grado di avvertire automaticamente se il motore delle auto è sottoposto a dei test di emissione, nel qual caso automaticamente muta le temperature di combustione del motore in maniera tale da fare rientrare i limiti di emissioni, in particolare dei diossidi di azoto, entro i limiti che vengono dichiarati e per cui vengono certificate quelle auto Euro 5 o Euro 6 soprattutto, quindi stiamo parlando della classe dal punto di vista della certificazione europea più avanzata come contenimento delle emissioni nocive. Ma nel ciclo ordinario dell'automobile il motore in realtà non sta affatto entro quei limiti, anzi arriva a produrre gli ossidi di azoto fino a 40 volte i limiti dichiarati. 40 volte, capite, non stiamo parlando di una robetta. Ecco, questo device montato nelle centraline è quindi deliberatamente posto lì da Volkswagen per ottenere questo effetto. La storia è incredibile perché nasce poi paradossalmente nei suoi sviluppi nel tempo da non un controllo del regolatore americano, nasce dal fatto che un istituto per la preservazione del clima, l'International Council on Clean Transportation, convinto da anni che lo scetticismo degli americani e anche dei giapponesi verso il diesel come formula propulsiva per auto sia un grave errore dal punto di vista del contenimento delle emissioni, che anch'essa è diventata una politica molto forte con la presidenza Obama. Sapete che per questo poi Chrysler ha avuto una mano dal punto di vista del fatto che l'ha preso Fiat e Marchionne. Ecco, e allora questo International Council on Clean Transportation, convinto del fatto che i limiti di emissioni delle classi 6 europee dei diesel fossero così straordinariamente contenuti, per convincere i regolatori americani e il mercato americano, replica i test per portarli all'attenzione del mercato e del regolatore americano, dicendo: commettiamo un errore a non puntare sul diesel come sistema di propulsione che può essere pulito, molto più pulito di quanto non si immagino il regolatore e il consumatore americano. Se non che vanno a replicare questi test in America con questo fine, un fine quindi positivo. E però quando si iniziano a replicare i test su strada non si trovano per niente con i risultati che credevano di ottenere, o per meglio dire, alcune case e alcuni veicoli di alcune case, tipo le BMW 5 eccetera eccetera, stanno nei limiti delle loro tabelle. Altri, in particolare le Volkswagen, quindi le Golf, le Jetta, le Audi con i 2000 diesel, per niente. E a questo punto loro hanno dei dubbi, tant'è che estendono sempre di più le collaborazioni con altri centri studi sulla resa termodinamica dei motori in tutti gli Stati Uniti, fino a che alla fine sono costretti a segnalare la cosa alle autorità di regolazione, quelle statali, della California in particolare, e poi quella federale, l'EPA. L'EPA apre un procedimento, chiama gli ingegneri della Volkswagen, questo avviene nel 2014, gli ingegneri della Volkswagen passano mesi a ciullare nel manico, secondo quel la ricostruzione oggi della stampa specialistica Automotive News sui giornali americani e così via, cioè dicono: ma no, siete voi che non fate bene i test, fino al punto tale in cui il regolatore americano si scoccia e dice: vabbè, visto che non siete collaborativi, allora intanto vi beccate un processo federale, primo; secondo, ci fate la cortesia di ritirare 483.000 auto che avete venduto con questo motore diesel sul mercato americano dal 2008 a oggi; terzo, noi controlliamo veicolo per veicolo e per ognuno di questi, se becchiamo il vostro device dentro, come fino a questo momento tutti i test sembrano confermare, vi multiamo per ogni veicolo fino a una somma totale su 480.000 che può essere 18 miliardi di dollari. Tenete presente che stamattina in borsa la Volkswagen ha perso dei suoi 80 miliardi di euro di capitalizzazione a cui aveva chiuso venerdì scorso, ne ha persi più di 20 miliardi di capitalizzazione, cioè il mercato ha capito e giudica che questa sia una vicenda senza precedenti di truffa industriale su una delle cose su cui abbiamo parametrato le politiche ambientali e le politiche del trasporto su auto da 15 anni a questa parte, incredibilmente da parte del numero uno mondiale tedesco, per di più, cioè di quelli che le regole si rispettano su tutto e su tutti eccetera eccetera. L'azienda sabato, l'amministratore delegato Winterkorn, che ha appena vinto contro il presidente Piech che lo voleva mandare via, è rimasto trionfalmente amministratore delegato sabato, è costretto ad ammettere, a chiedere scusa, ma ancora una volta lo fa in maniera indiretta, appello a una commissione di esterni per fare chiarezza su come mai questo device sia nei motori Volkswagen, come se qualcun altro avesse potuto mettercelo, fino appunto alla picco, all'abisso in cui precipita Volkswagen stamattina, ed è un abisso in cui in primis voci tecniche tedesche chiedono l'immediata testa dell'amministratore delegato Winterkorn e di tutti i dirigenti Volkswagen implicati in questa truffa tecnologica. Perché? Dichiara Ferdinand Dudenhofer, che è il direttore di un centro di ricerche universitario sull'auto che è il più importante in Germania ed uno dei più importanti al mondo, il centro di ricerca sull'auto dell'università di Duisburg Essen. Ferdinand Dudenhofer dice: guardate che alla testa dell'ufficio sviluppo centrale della Volkswagen, attraverso il quale passa l'autorizzazione per ogni componente di ogni motore Volkswagen, c'è personalmente l'amministratore delegato Martin Winterkorn. Quindi per favore non ci racconti che non ne sapeva nulla, questa è una cosa che va avanti da anni, perché l'azienda evidentemente ha scelto fino ai suoi massimi livelli di comportarsi in questa maniera, quindi immediatamente a casa, non può arrivare neanche al prossimo consiglio d'amministrazione di venerdì prossimo. Gli interrogativi. A questo punto, cari ascoltatori, telefonateci per dircelo. Credete che la cosa riguardi solo la Volkswagen e solo il mercato americano? Uno, ci vorranno verifiche in tutto il mondo. Due, riguarda solo la Volkswagen o anche le altre case produttrici? ci possiamo veramente credere alle tabelle di emissioni così straordinariamente contenute che vengono dichiarate, sempre più contenute di semestre in semestre sui nuovi modelli delle diverse case produttrici, o siamo in presenza di una delle più colossali truffe nei confronti del clima e dell'ambiente e della migliorata resa termodinamica delle propulsioni delle auto nella storia del mondo? Perché di questo si tratta, non si tratta di ingigantire, ma si tratta di capire un fenomeno. E soprattutto, ma quanti altri falsi ci sono di questo tipo in gruppi mondiali di queste proporzioni, di questo prestigio, di questo successo? Ecco, allora, per capirci, e prima di passare la parola al nostro ospite, gli ossidi d'azoto sono quelli per i quali nei motori diesel, questo lo sapranno molto meglio di me gli appassionati di motore, siccome la quantità di emissione di ossidi di azoto dipende dalla temperatura della combustione nel motore, ci sono diversi metodi ovviamente per contenerne le emissioni che la tecnologia dell'auto ha sviluppato in questi anni, perché uno di questi ovviamente è la marmitta catalitica, che favorisce una reazione molecolare sui gas di scarico. Un'altra metodologia è quella dei catalizzatori, che invece convogliano i gas esausti della combustione all'interno della camera di scoppio per abbassare la temperatura. La delicatezza e anche per così dire la quantità di investimento necessario su questa tecnologia dipende dal fatto che la forbice di temperatura su cui si può agire non è troppo elevata, quindi bisogna avere una tecnologia molto raffinata, perché altrimenti il contenimento dell'emissione degli ossidi di azoto porta a un innalzamento invece delle emissioni di CO2. Quindi questo spiega perché stiamo parlando di una tecnologia molto di punta che ha avuto molto sviluppo in questi anni. Cosa diversa è montare invece un software nella centralina che ottiene l'effetto di contraffare in maniera così plateale il merito che ci si vanta di avere, perché grazie agli investimenti tecnologici tedeschi si contiene l'emissione di sostanze nocive. Ecco, questa è la vicenda. Per capire che cosa ne pensa, ho chiamato oggi un grandissimo ex manager del settore automotive, cioè colui quale da operaio nato a Torino, figlio di onestissimi portieri di una delle piazze centrali di Torino, da operaio della Fiat, entrò al comitato strategico dell'azienda, portando all'interno del perimetro dell'azienda, risanando e rilanciando la New Holland, quindi stiamo parlando macchine agricole industriali, fino ad arrivare al comitato strategico, e quindi conosce dall'interno, per averci passato molti anni, metodologie di gestione di gruppi dell'automotive così complessi e così internazionalizzati, perché con New Holland arrivò proprio l'ondata dell'internalizzazione all'interno del gruppo, Fiat, cioè Riccardo Ruggeri. Grazie di essere con noi, Riccardo, oggi pomeriggio. Grazie a voi, grazie a te, Oscar. Allora, io l'ho fatta lunga per consentire a ciascuno di capire la gravità e le proporzioni di ciò di cui siamo in presenza. Secondo te è una vicenda di gravità storica o è una delle tante cose un po' ingigantite dalla stampa in 24 ore, ma di quelle che si vedono e passano? No, è una cosa di una gravità storica, su questo non ci sono dubbi. Il tema, credo che sia un altro, è quante ce ne saranno altre. Questo è il tema, perché sappiamo tutti che quando vengono posti dei vincoli rigorosissimi in termini di emissioni o di altre cose, lì si apre tutto un grande discorso che noi chiamiamo semplicemente lobbying, ma che ha dietro degli enormi interessi. Tu hai citato una serie di componenti. Capisci che se uno di quei componenti viene scelto può cambiare la vita di aziende, di intere filiere di aziende. Di intere filiere, quindi su questo non ci sono dubbi che è una cosa gravissima. E credo così che la domanda implicita sia, sono totalmente d'accordo con la stampa tedesca, credo che in qualsiasi paese civile lui non dovrebbe arrivare a stasera, ecco. Cioè tu dici è una cosa di una tale gravità che era ministro delegato, oltretutto a capo dell'ufficio sviluppo, che mette il timbro su qualunque cosa vada nei propulsori Volkswagen, non può che dire vado a casa, non è che chiedo a esperti esterni cosa è successo. Sì, no, a parte questo, ma quello è il classico caso di mani pulite, permettimi, no? No, certo. Non poteva non sapere. Certo. Però la cosa particolare è che qui stiamo parlando di prassi che, a quanto risulta, vanno avanti da anni e anni e anni. Quindi, cioè, non si tratta di un marchingegno fatto su un veicolo test per superare il test e poi però... Si tratta di produzione di serie che da anni e anni incorpora questo tipo di software. Cioè stiamo parlando di una truffa continuata. Che siano i tedeschi per te vuol dire qualcosa o vuol dire niente? Però la risposta me la dai tra un minuto perché torniamo subito dopo l'informazione sulle strade. Autostrada Pedemontana, la prima e unica senza caselli. Scoprila su pedemontana.com. Vi presenta... La versione di Oscar. Eccoci tornati in diretta alle 16.48 per i 30 secondi. Stiamo parlando di questo gigantesco, veramente gigantesco scandalo che travolge la Volkswagen in America, beccata da anni a vendere i motori 2 litri diesel con un device dentro che serve a mettere in linea le emissioni con quelle dichiarate. Solo quando se ne accorge automaticamente questo software, il motore è sottoposto ai test del regolatore, altrimenti si va fino a 40 volte le emissioni per gli ossidi di azoto dichiarate. Una crisi verticale che è in corso sui mercati, sul titolo Volkswagen. Vedremo se il ministro delegato va a casa oppure no. Dalla Germania stessa gli dicono di andare a casa. Guardate che anche la Cancelleria federale ha emesso una nota di una durezza senza precedenti nei confronti della Volkswagen, dicendo che vuole sapere tutto in tempi molto brevi, perché come capite questo è uno dei drive dell'esportazione tedesca in tutto il mondo. Quindi la Cancelleria tedesca dà l'idea di non essere molto pronta a coprire questa truffa della Volkswagen. E chiedevo a Riccardo Ruggeri, che è con noi, se per lui il fatto che venga proprio dai tedeschi questa cosa abbia qualche rilievo oppure no, lo fanno tutti, lo fanno solo loro, che pensi? No, il fatto che venga dai tedeschi indubbiamente è estremamente grave, più grave che se avvenisse in altri casi, visto che sono i numeri uno. Però sai, su questo non mi stupisco più di tanto, perché credo che ci sia stato, tu hai raccontato la storia come è avvenuta, sappiamo tutti che gli americani sono molto critici sul diesel, no? Così come sono critici su tutto ciò che loro non posseggono. Esatto. Ricordiamoci il Concorde, l'hanno praticamente ucciso loro il Concorde, non erano capaci a farlo e non hanno permesso che atterrasse per 10 anni e quindi praticamente è morto. Però al di là di tutto questo fa parte secondo me però del business, del degrado nel quale il management si trova. Tu sai che io sono molto critico. E ti pregherei di riportare sistematicamente questa tua convinzione profonda, che secondo me è molto rilevante perché vieni dall'interno, ci sei passato da quello. No, ma non vorrei farne un discorso, no. Cioè, è un discorso che ai miei tempi, come si dice, non si poneva, ma semplicemente perché non c'erano i grandi regolatori, no? I regolatori erano delle cose molto, molto banali rispetto ad oggi. I regolatori sono diventati, e abbiamo visto, scusa, uno scandalo secondo me molto più grave di questo. Questo è quello della truffa che hanno fatto i professori inglesi sul clima. Sul clima. No, cioè, questa qui è una truffa di dimensioni cosmiche, addirittura un candidato alla presidenza degli Stati Uniti, vicepresidente degli Stati Uniti, che raccontava delle balle colossali. Questo fa parte indubbiamente di questa epoca storica di transizione. Però in buona sostanza tu dici, in questi grandi gruppi mondializzati, di fronte alle prospettive di una finanza che si misura in miliardi e miliardi di dollari, in realtà nel management di altissimo livello la qualità etica di fronte alle possibilità di ottenere mercati, soldi, utili, stock option, eccetera, eccetera. Option, aggiungi quello, perché quello è il punto più grave di tutti. Abbassa il livello di che cosa si può considerare una truffa assolutamente accettabile. Assolutamente, questo è il tema è questo. E E quindi non è che possiamo, cioè io sono convinto che poi non succeda niente dal punto di vista, perché i prodotti Volkswagen non ci sono dubbi che sono [S2] Certo. [S1] I numeri uno al mondo, e lo dico non perché c'ho un Audi, no, ma lo dico oggettivamente che sono i prodotti numero uno al mondo. Indubbiamente loro si mangeranno, gli azionisti dovranno perdere un anno di dividendi. Ah, sì. Perché coincide con gli utili. Esattamente. La multa coincide con gli utili. Esattamente. Quindi stiamo parlando di una botta storica. Per la è una botta storica, che dà una mano anche indirettamente, ma insomma non troppo indirettamente, alle mire di Marchionne e del sindacato. Ma credo però... che questo, dal punto di vista del mercato, sono cose che non hanno quella... Fatto. Siamo noi addetti ai lavori che facciamo queste inferenze, queste cose, che non sono causa. Ma non c'ha nessuna rilevanza dal punto di vista. Beh, però auguriamoci, perché almeno da un punto di vista i regolatori americani non lo fanno con tutti e sempre, però quando ci si mettono, anche se lo fanno più non solo con chi più non volentieri con gli stranieri, però lo hanno fatto anche con General Motors e così via. Sì, però a questo punto io mi augurerei che i regolatori europei facessero lo stesso tipo di controlli su tutta Europa, anche perché noi incentiviamo questo tipo di classi. Credo che questa sia una lotta impari. Io la paragono al doping nel ciclismo. Ah, mamma mia. È una lotta impari. Allora, a me piace che Riccardo Ruggeri, come sempre, non nasconde la sua opinione dietro un dito. Cioè, siamo in presenza di un fenomeno che non è un'eccezione. Parliamoci chiaro, fuori dai denti. Adesso sentiamo rapidamente come la pensano un po' dei nostri ascoltatori. Agostino da Torino. Agostino, prego. Buonasera, sono compaesano, anzi concittadino ingegnere Ruggeri. Ho messo così in fila tre pensieri. I tedeschi hanno fatto questa mega truffa, sono lo stesso popolo che sta sgonfiando le gomme in Formula 1 per arrivare più prima, e sono gli stessi che tanti anni fa, dato che superarono sempre in Formula 1 i limiti di peso, si erano scrostati la macchina per diventare poi le famose Frecce d'Argento. Volevo solo ricordare i precedenti, per così dire. Carlo da Roma, come la pensa, Carlo? Buonasera. Giannino. Allora, intanto sto facendo grasse risate da stamane su questa figura di palta, come dicono quelli colti, degli austeri germani che ci vogliono imporre la loro visione del mondo, e eccoli qua, come si dice a Roma, da cui chiamo, vi sputa per aria e gli ricade sempre. Vabbè, Carlo, l'hai detta chiara, per così dire. Matteo D'Alecco e gli altri, Franco da Cremona, qui il tempo è finito, io vi ringrazio Riccardo Ruggeri e come sempre vi dico semplicemente che credo che sia solo l'inizio, perché questa è una storia brutta ma pesantissima per l'intero settore. Continuate con la 24, appuntamento come a domani.